Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Ieri sera abbiamo fatto una panoramica delle molte applicazioni possibili dello storage energetico, cioè dell'immagazzinamento di energia, in particolare elettrica, e questa sera facciamo invece una panoramica complementare. Proveremo infatti a tracciare un quadro delle varie tecnologie e soluzioni disponibili appunto per immagazzinare energia. Alcune di queste sono molto note, altre lo sono molto di meno. A tal scopo continuiamo ad avvalerci dell'aiuto del professor Roberto Faranda, docente di sistemi elettrici per l'energia del Politecnico di Milano. Buonasera Faranda, bentornato. Buonasera, grazie. Allora, io direi partiamo da quello che esiste. Che cosa c'è? Che cosa viene già oggi utilizzato per fare accumulo di energia? Oggi sul mercato esistono fondamentalmente due tipologie di accumulo. Un accumulo a lungo termine e un accumulo a breve e brevissimo termine. Mm-hmm. In particolare parlando del primo, l'accumulo a lungo termine, si possono sicuramente vedere i sistemi di pompaggio, che sono serbatoi. Quindi parliamo di bacini idrici, di dighe sostanzialmente. Esatto, okay. Parliamo di dighe dove tramite una condotta forzata l'acqua viene spinta a ritornare nella zona di partenza, in modo tale da poter essere ripresa e riturbinata, come si dice in gergo, per la produzione di energia. Cioè in pratica di solito l'energia si produce facendo cadere l'acqua attraverso queste tubazioni, esatto, dal bacino, dall'alto verso il basso. Il ripompaggio consiste nel fare il contrario, la si riporta su con una pompa. La si spinge su, quando è su, poi la riposo di utilizzare. Eccetera, eccetera. Questa operazione la faccio durante periodi notturni e una volta che poi l'acqua è di nuovo in bacino, quando mi serve la utilizzo. Poi altri sistemi che sfruttano praticamente un concetto simile, cioè spinta nei momenti di basso carico e a ripresa nei momenti di alto carico, sono quelli ad esempio ad aria compressa, mm-hmm, che sfruttano delle cavità naturali per aumentare la pressione all'interno di queste caverne. Ah, quindi si riempiono delle caverne di aria compressa? Esatto, e quando mi serve energia non faccio nient'altro che ritirare fuori quest'aria compressa e far girare una turbina, ancora una volta riesco a tirare fuori dell'energia elettrica. Ecco, una domanda, questi sistemi qui che efficienze hanno indicativamente? Sistemi che non hanno delle grandissime efficienze, pensiamo ai sistemi di pompaggio, hanno grosso modo un 80% di efficienza, però devi pensare che l'energia parte da sotto, va sopra e poi da sopra ritorna sotto, quindi effettiva è uno 0,80 per 0,80, quindi è uno 0,64. Ecco, questo è un fatto molto, molto importante che dobbiamo spiegare bene, cioè qualunque sistema si scelga, una perdita di energia tra carica e scarica c'è sempre. Sì, è anche non insignificante. Quindi accumulare vuol dire comunque sprecare, sacrificare un po' della fonte primaria. D'accordo, cioè, d'accordo. Produrre energia esattamente nel momento che mi serve è molto meglio. È molto meglio, perfetto, perfetto. Dal punto di vista dell'energia. Continuiamo, allora abbiamo detto caverne piene di gas compresso e bacini idrici. E poi? E poi invece ci sono quelli veloci. Quelli veloci che oggigiorno sono fondamentalmente di due tipi, sono i superconduttori, sì, gli SMEX si chiamano in gergo, che servono prevalentemente per tamponare problemi di rete, quindi c'è la rete che per qualche periodo di funzionamento non riesce ad andare benissimo, per brevi istanti. Interviene su dei sussulti della rete, tra virgolette. Si chiamano buchi di tensione, sì, ad esempio. Ok. Quindi per un periodo di rete viene perso, sostanzialmente, e allora il sistema di generazione innesta lui quella potenza che serve per creare lo stesso quella tensione per il carico. D'accordo. E questa stessa identica funzione la fanno i volani. Ovviamente sono sistemi che lavorano a velocità diverse, quindi sono molto più rapidi, si parlano di qualche minuto, tanto per essere chiari, perché hanno delle autoscariche che sono significative, o comunque delle perdite a vuoto potenti. Disperdono molto, insomma. Esatto. Poi un altro sistema di accumulo che oggi c'è ed è estremamente diffuso è l'accumulo chimico, accumulo nella batteria e poi utilizzo quello che c'è nella batteria per alimentare il carico. Certo, insomma, la classica batteria. Ecco, sul fronte quello delle batterie, tra l'altro, c'è una grande varietà anche di proposte, di ricerche. Sì, sulle batterie ce n'è di tutti i tipi. Sugli ioni di litio, per dire, ci sono infinità di tipologie diverse, ognuno con prestazioni differenti. quello che è di questi anni ormai, dell'ultimo anno, è quello di realizzare comunque dei sistemi che abbiano la capacità di essere utilizzati in modo conveniente sia nelle applicazioni stazionarie ma soprattutto nel veicolo elettrico. Ormai il futuro della trazione è l'idea di andare sul veicolo elettrico, e il punto critico di tutta questa faccenda è proprio il sistema di accumulo, che deve essere sufficientemente grande da permettere una grande autonomia del mezzo, però contemporaneamente sufficientemente leggero da non obbligare a consumare quasi tutta l'energia che il sistema ha accumulato per trasportare solo le batterie. C'è una battuta che gira in questo campo, si dice che l'automobile elettrica è una batteria con una serie di banalità intorno. È una batteria con delle ruote. non è proprio una banalità, ecco. Sì, però, sì, no, ma per dire che insomma la parte veramente difficile è la batteria, tutto il resto è elettronica, motori, cose tutto sommato che si possono, che tutto sappiamo fare, no? Semplice. Che sappiamo fare. Si parla poi anche di idrogeno, no? Sì, ci sono sistemi abbastanza nuovi che stanno venendo fuori adesso con la produzione dell'idrogeno, dove si riesce a produrre l'idrogeno anche qui con rendimenti abbastanza bassi, che siamo intorno al 20%. Il problema in questo caso magari è lo stoccaggio, che comunque essendo un materiale abbastanza pericoloso, stoccarlo in ambienti fatti in un certo modo, con contenuti... Ci vogliono delle sicurezze. Va bene, grazie ancora Faranda. Grazie a lei, arrivederci. Bene, anche per stasera è tutto. Domani torniamo su un tema che abbiamo aperto martedì e parleremo di effetto Seebeck, di celle termovoltaiche, vedremo alcune applicazioni anche un po' inaspettate. Buona serata a tutti.